canzone piena di sensualità. Scrivo un'emozione che abbia credibilità. Peso le parole, la canto con convinzione. E con la testa, la voce e le mani cerco l'ispirazione. In questa stanza grigia che mi ricorda di noi, ho tante cose in testa, troppe cose che non lo sai. E quando sono sul punto di fare il ritornello, sarà il caldo, sarà il pathos, ma mi si sveglia il barullo. Sarà il caldo, sarà il pathos, si sveglia il barullo. E quindi me lo frullo. Tanto impegno, tante idee, e invece lo frullo. Mi trastullo, poco me ne pento. Stava venendo una bella canzone, però son contento. Scrivo una canzone con rinnovata speranza, facendo finta che non sia successo niente in questa stanza. Mi riconcentro molto, mi lascio andare alle idee, facendo finta che non sappia già questo proposito come finirà. E poi cambio la rima, non è più quella di prima. Se no la gente critica, senti che tipica questa tonalità. Vi stupirò cambiando di colpo gli accordi, per complicarla e fare in modo che qualcuno la scordi. E tutto torna come prima, non è una novità, che tanto già so, che già sai, che già so com'è che finirà. Che tanto già so, che già sai, che già so com'è che finirà. Finirà in un oh, finirà in un oh, oh, oh, finirà in un oh, finirà che, finirà che lo frullerò. Oh,